GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Un caso sospetto di doping ha turbato il giorno di riposo del Tour de France. Rémy de Gregoriot, corridore francese del team Cofidis, è stato arrestato nell'albergo di Bourg-en-Bresse dove soggiornava perché sospettato di aver fatto uso di sostanze illecite. Per la stessa vicenda arrestate anche altre due persone. Oggi si riprende a pedalare con Wiggins sempre in giallo e la prima tappa alpina. Il servizio. Dopo il riposo di ieri e l'arresto eccellente di Rémy de Gregoriot, da sempre considerato una delle grandi speranze del ciclismo francese, il Tour riprende il proprio cammino. Ci sono le Alpi e c'è da recuperare un terreno a Bradley Wiggins, che dopo la cronometro dell'altro ieri a Besançon ha messo prepotentemente le mani su questa edizione del Tour de France. Il britannico del Team Sky ora ha un vantaggio di 1 minuto e 53 secondi sull'australiano Cadel Evans, 2.07 sul compagno di squadra il sudafricano Chris Froome e 2.23 sul nostro Vincenzo Nibali. Oggi prima tappa alpina con la scalata del Gran Colombier per la prima volta nella storia affrontata dal Tour. Il gigante dello Jura è una salita di 17,5 km con una pendenza media del 7%, un dislivello di 1.200 metri. Dopo il Colombier ci sarà il Richemont, l'ultima salita prima dell'arrivo, posto a 42 km dal traguardo a Bellegarde sul Valserre. Non è una tappa terribile, ma è certamente insidiosa, soprattutto perché arriva dopo 10 giorni di corsa e un giorno di riposo, e si sa che spesso i giorni di riposo restano nelle gambe. Per Augusto Staggi, dalle 24 alle 24 ore. 16 giorni al via delle Olimpiadi di Londra ed è polemica per l'esclusione dalla squadra di atletica di Andrew Howe, che sui 200 metri ha sfiorato il tempo minimo ai campionati assoluti senza centrare l'obiettivo causa vento contrario. Il presidente del CONI Gianni Petrucci. Certo, è un atleta straordinario, meritava, ma anche altri atleti meritavano, per cui quello che è stato fatto di intesa con la federazione. Gli atleti per noi sono sacri. Andriawi lo sa che noi lo stimiamo, però quella è la decisione, non poteva essere diversamente d'intesa con la federazione. E a proposito di sprint, abbiamo chiesto a un vero esperto come andrà a finire il duello tra i giamaicani Blake e Bolt sui 100 e 200 metri. A Radio 24 Maurice Green, l'americano oro sui 100 a Sydney 2000 e ora commentatore per Eurosport. Johan Blake ha corso molto bene in modo continuo, del resto è il campione del mondo in carica e sono convinto che il suo stile di corsa sia più completo rispetto a quello di Usain Bolt. Usain ora ha qualche problema con la sua corsa e il programma da seguire verso le Olimpiadi. A questo punto vedo Blake come grande favorito sui 100 metri perché Bolt non è nelle stesse condizioni tecniche e di forma di Pechino. Ma sui 200 metri dovessi scommettere dei soldi, punterei proprio su Bolt. Secondo me sui 200 può essere velocissimo e fare qualcosa di incredibile. Per il calcio, acque agitate in casa Roma col direttore sportivo Walter Sabatini alle prese con le esternazioni di Totti, che ha chiesto acquisti di peso per lottare al vertice, e Borini in partenza verso Liverpool. Sentiamo Sabatini. Per la verità avrei preferito che lui avesse detto: sono alla testa di un gruppo di ragazzi che vogliono fare, combattere e ottenere dei risultati, io li guiderò a questi risultati. Avrei preferito che avesse detto questo, però ha detto anche molte altre cose carine circa i suoi compagni, quindi in qualche maniera si è riabilitato. C'è un reale interesse di questa società per Borini, lo stiamo valutando insieme a Franco, insieme alla società. Chiudiamo con una voce indimenticabile che ci riporta esattamente a 30 anni fa. Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Era l'11 luglio del 1982 quando Nando Martellini scandiva così il trionfo mondiale dell'Italia di Enzo Bearzotta a Madrid per 3-1 contro la Germania Ovest. Una giornata indimenticabile che rivivremo oggi nel tempo di sport con Claudio Arrigoni a partire dalle 14. Ancora una buona giornata.